Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati, in Sergante il traghettatore. Vi ricordo che al Ferry Boat @radio24 potete scriverci per segnalare le vostre iniziative nel campo del no profit e della responsabilità sociale d'impresa. Venerdì chiudono le iscrizioni alla terza edizione del premio Famiglia Lavoro. Che cos'è il premio Famiglia Lavoro? Ce lo spiega il project manager di questa terza edizione, Cristina Gini. Sì, buongiorno a tutti, sono Cristina Gini e lavoro in Altis, Alta Scuola Imprese e Società dell'Università Cattolica di Milano. Altis, insieme a Regione Lombardia, promuove per questo terzo anno il premio Famiglia Lavoro. Si tratta di un'iniziativa rivolta al mondo delle imprese, profit e non profit, e al mondo della pubblica amministrazione lombarde, che vuole diffondere le migliori esperienze e i progetti in tema di conciliazione famiglia-lavoro, quindi aziende che curano il dipendente e i collaboratori come, diciamo, una leva di forza nel contesto sociale, nel contesto aziendale soprattutto. Le iscrizioni al premio, che appunto ha visto negli scorsi anni aziende vincitrici come Wind, Telecom, ATM, varie aziende, sono appunto entro l'11 febbraio. Bisogna iscriversi in modo molto semplice compilando una scheda di candidatura, quasi tutta risposte chiuse. La scheda si può scaricare dal sito www.premiofamiglialavoro.regione.lombardia.it. Bene, grazie Cristina Gini. Gli italiani sono generosi, parliamo sempre di no profit, quindi ci siamo giustamente interessati alla ricerca della Gallup, che è stata pubblicata proprio in questi giorni. I risultati sono: gli italiani dichiarano di aver donato soldi, sono al 33%, il 14% dichiara di aver fatto volontariato, il 32% di aver aiutato uno sconosciuto. Sono dati significativi, un po' meno sensibili di quelli americani, per esempio, dove sono il 65% che si occupa di donazioni, il 38% degli irlandesi dicono di dedicarsi al volontariato e il 69%, più del doppio, hanno affermato di aver aiutato uno sconosciuto. A proposito di volontariato, vi ricordo che è in linea da qualche giorno la nuova piattaforma ideata da Fabrizio Trentin e Roberto Basso, che si ispira a Facebook, ovviamente in piccolo, che si chiama Shiny Note, SHINY Note, ed è dedicato interamente alle ONLUS. Servirà proprio a favorire lo scambio di informazioni fra aziende, istituzioni, cittadini e organizzazioni non profit. Giovedì allo spazio City Life a Milano c'è un appuntamento con la Fondazione Robert Kennedy, che si occupa della difesa dei diritti umani in Italia e nel mondo. Vi segnaliamo questo evento anche per la curiosità: chi vuole può andare ad ascoltare Letizia Moratti, sindaco di Milano, che leggerà alcuni brani tratti dai celebri discorsi proprio di Robert Kennedy. Dal 7 febbraio, quindi, è cominciato il Social Media Week di Roma, il Festival della Rete. Tra gli aderenti a questa iniziativa anche la Fondazione Mondo Digitale, che ha varato il premio Telemaus 3.0. Quali sono gli obiettivi di questa iniziativa e del concorso volontario della conoscenza? Lo chiediamo a Mirta Michilli, che è direttore generale della Fondazione. Un saluto a tutti. Sì, questo premio Telemaus 3.0 è promosso dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Telecom Italia e sotto il patrocinio del Ministero della Gioventù. È un premio rivolto a tutti i ragazzi che si vogliano cimentare a fare i volontari, trasmettendo le proprie competenze digitali agli anziani iscritti ai centri anziani del Comune di Roma. E abbiamo due borse di studio, una di 500 euro e l'altra di 1500 euro, che la Fondazione mette a disposizione dei due ragazzi che si saranno particolarmente distinti in queste azioni di volontariato, di trasmissione del sapere. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 aprile 2011 e i moduli con cui sia gli anziani ma anche gli amici, gli insegnanti, gli studenti delle scuole romane possono candidare scegliere il proprio volontario. Si trovano sul sito della Fondazione Mondo Digitale all'indirizzo www.mondodigitale.org. Bene, grazie Mirta Michili, ringrazio anche gli ascoltatori, vi ricordo il nostro indirizzo ferribotto@radio24.it per le segnalazioni, e anche che gli appuntamenti di Ferribotto sono al mattino alle 6.50 e in replica alle 13.55 il sabato, la domenica andiamo in onda alle 6.50 al mattino e in replica alle 14. Redazione con noi come sempre Anita Panizza, in regia Valeria Bernardi. A risentirci.